Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 9 minuti, buona domenica, da Stefano Gallarini comincia il riposo del guerriero, comincia il rotocalco domenicale che oggi dovrebbe rendervi più felici del solito, perché la felicità è il tema della puntata di oggi. Siamo un po' partiti dal primo ministro inglese Cameron, che ha proposto una sorta di sondaggio ai cittadini e le domande sono state queste, tipo: siete soddisfatti della vostra vita? Quanto siete soddisfatti di stare con vostro marito o vostra moglie? Che voto dareste alla vostra salute fisica e mentale? Avete un lavoro e vi piace quello che fate? E poi invece ci sono altre domande che riguardano più il luogo dove si vive, tipo: vivete in un quartiere buono e temete la criminalità? Siete soddisfatti del vostro stipendio? Che grado di istruzione avete? Questa è una domanda che secondo me serve poi a stilare una sorta di sondaggio anche in base proprio a grado di istruzione. Una domanda che non avrei fatto onestamente, però insomma è stata posta. Però è curioso che qualcuno si preoccupi della felicità dei cittadini e questo ovviamente ci piace. Io vorrei preoccuparmi della vostra felicità, voglio capire se siete felici e che cosa vi rende felici. Per farmelo sapere, gli sms come al solito al 349-238-6666, ma anche la nostra pagina di Facebook, Il riposo del guerriero, cercatela, la troverete, perché vorrei capire che cosa vi rende felici, magari anche per pochi minuti, però ci sono delle cose che ancora, grazie al cielo, ci rendono felici. Io spero tutto, però non è proprio così. Spero anche di rendervi felici regalandovi 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. Infatti alle 11.30, anche oggi, ci sarà il mistero in 24 minuti, mistero da risolvere grazie agli indizi musicali. Più indizi ascolterete, però più il premio si abbasserà. La risposta, come ogni domenica, potrà essere o una notizia della settimana oppure un personaggio o qualcosa di particolarmente famoso. Il primo indizio di questa settimana, eccolo qua. Tornerò, com'è possibile? Ho pescato gli indizi questa settimana veramente anni 70, ecco, quindi credo che molti di voi manco abbiano mai sentito le canzoni che proporrò, però questa era molto famosa. È il primo indizio per giocare, il numero verde è questo, potete prenotarvi da adesso, 800 24 00 24. Oggi parliamo di felicità e allora, tanto per cominciare, si dice, no? Impara a fischiettare che le cose andranno sicuramente meglio. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ho voluto iniziare con Bobby McFerrin, perché a parte questa canzone molto famosa che è Don't Worry Be Happy, ovvero non preoccuparti ma sii felice, e perché beh, lui insomma è un amante del ragamuffin, ma soprattutto è molto curiosa come è costruita questa canzone, che ha l'inserimento di tantissime voci. Infatti lui ama questo genere di cose, in realtà gli strumenti sono vocali, ma poi a un certo punto lui dice: se siete preoccupati per qualcosa fatemi uno squillo che vi risponderò. E fa molto ridere, perché sembra davvero che tu possa adesso chiamarlo cercando il numero di telefono magari sul disco e poi parlare con lui, ma non è possibile, bisognerebbe conoscere perché questo possa avvenire. Marilina Palumbo, buona domenica. Marilina Palumbo, eccola qua, è psicoterapeuta e anche responsabile del primo centro di psicologia contemporanea. Marilina Palumbo, l'abbiamo chiamata perché oggi, parlando di felicità, dobbiamo cominciare dal nostro atteggiamento verso la felicità. E da dove possiamo partire? Domanda complicatissima, immagino. Una domanda, risponderei semplicemente ad una domanda complicata, nel senso: partirei da noi stessi, dalle piccole cose. Allora cerchiamo di capire quali sono queste piccole cose, perché come dice McFerrin, dice: non preoccuparti, sii felice. Ma a volte è molto difficile non preoccuparsi, no? Viene istintivo farlo. Viviamo anche un tempo dove come non si fa, come è impossibile non preoccuparsi tutti. Però partire da se stessi, come dicevo prima, partire dalle piccole cose, partire dal volersi bene, dal coltivare i propri affetti importanti, la famiglia, i figli, il compagno, il marito, i genitori, partire dalla solidarietà, dal rispetto, dal guardarsi allo specchio e piacersi e dirsi però anche oggi ho fatto il mio dovere. Ecco, ritornare dalle cose che ci fanno stare bene in maniera molto semplice, senza pensare che solo una bella macchina, un bel vestito o un bel viaggio ci possano fare felici. Ecco, allora proprio io la interrompo un attimo perché ho gli aggiornamenti sul traffico, ma vorrei riprendere proprio da qui, perché invece le lunghe code che si formano quando per esempio negozi di tecnologia fanno sconti mi fanno pensare che la felicità a volte sia molto legata al possesso di oggetti. Il riposo del guerriero. Ecco, dottoressa Palumbo, allora dicevo, mi sembra di capire che invece il feticismo verso gli oggetti, magari legati al mondo della tecnologia, così siano forse una felicità effimera, ma pare che si cerchi proprio quella, soprattutto. Ma purtroppo perché siamo bombardati da questo tipo di comunicazione, che l'oggetto, in questo momento poi c'è, come dice giustamente lei, in gran voga l'esigenza di avere gli oggetti tecnologici, quindi telefonini più belli, essere rintracciabili comunque, dovunque, in tutte le parti del mondo, in ogni momento, però continuiamo a essere infelici. La depressione, la tristezza, l'incapacità di comunicabilità, il non riuscire mai a farsi capire in famiglia, sul lavoro, nel sociale. Ecco, questo vuol dire che ci manca qualcosa, perché noi tutti ci siamo allontanati da quello che fa star bene ogni essere umano di qualsiasi età, cioè parlare, abbracciarsi, riscoprire i valori. Creda, non vuole essere una banalità o non vuole essere la cosa buona detta la domenica sì mattina. Io lo capisco, perché lo sembrano sempre banalità, no? Purtroppo, perché è ovvio, perché quando una cosa è troppo semplice appare sempre banale. Ne avevamo già parlato, esatto, anche in un'altra puntata. Siamo allontanati dalla semplicità. Se non è tutto complicato, se non è tutto difficile, non ci piace più. Però le posso assicurare che chi riesce a riappropriarsi di quella semplicità, di quel modo di fare così umano che ci stiamo perdendo sempre, io credo che sia un piccolo passo per riappropriarsi di tante cose che ci stiamo perdendo. Ecco, io ho l'impressione però che l'acquisto degli oggetti, francamente, rappresenti un po' la facilità nel possedere gli affetti, tra virgolette, nel senso che io ho comprato un oggetto, so che quello non si allontanerà mai da me, a meno che non mi venga rubato, però tendenzialmente non mi tradirà mai. Non è che appunto viviamo questa esigenza di avere in qualche modo, perché invece chi ci sta intorno ci abbandona, o abbiamo la paura di essere costantemente abbandonati perché di fronte alle difficoltà si preferisce ormai allontanarsi piuttosto che affrontare e risolvere? Giusta questa affermazione, però diciamo pur vero che l'oggetto è sempre un oggetto, per cui è vero che non ci abbandona, ma perché non ha la possibilità di abbandonarci, ha solo la possibilità di rompersi o di perdersi. Ecco perché dobbiamo ritrovare la nostra umanità, perché ci stiamo allontanando talmente tutti dalla nostra umanità, dal nostro essere umani, che privilegiamo i rapporti con gli oggetti e con la tecnologia. Stiamo sempre di più assomigliando anche noi a delle macchine, questa è follia, per cui è vero, abbiamo paura dell'abbandono, però l'abbandono, se vogliamo, fa parte anche della vita, il prendere e lasciarsi, l'essere lasciati o l'essere abbandonati fa parte della vita. La preoccupazione grande, ed è quello che riscontro nel mio lavoro, è che abbiamo paura di noi stessi, delle nostre azioni, dei nostri sentimenti, della capacità di dimostrarli, e probabilmente questa paura è dovuta, e soprattutto in questo periodo molto accentuata, da una precarietà di vita, dalla precarietà di perdere il lavoro. Ecco, certo, l'incertezza ovviamente. Infatti volevo spostarmi poi per chiudere con lei sullo stress, cioè quanto siamo più stressati rispetto al passato, e cosa possiamo fare per vincere questa battaglia dello stress quotidiano, che poi è una parte dell'infelicità, credo che assolutamente sia. Anche. Guardi, rispetto ad un passato, lo stress è veramente a dismisura aumentato. In tutte le frange, proprio ieri mi arrivavano dei dati nuovi che all'interno anche degli ospedali e dei pronto soccorsi, tra gli infermieri e i medici c'è un altissimo tasso di stress da rendere quasi impossibile un lavoro sereno e ben organizzato a questi operatori. Per cui oggi lo stress è trasversale, dai bambini agli anziani, di ogni cultura, di ogni religione, di ogni veramente c'è una trasversalità assoluta. Cosa si può fare? Bisognerebbe cambiare gli stili di vita, purtroppo non ci sono delle ricette ad oggi, anche perché con gli stress quotidiani, sa, la paura di perdere il lavoro per chi ha un lavoro, la paura che... di non trovarlo per chi non riesce a trovarlo, ovviamente. I giovani che pensano di non poter affrontare una vita, una convivenza, un matrimonio, sì, avere dei figli perché non ce lo potranno mai permettere, le persone che pensano di non poter mai raggiungere la pensione, quindi viviamo sicuramente in un mondo che non ci facilita. Parlarle ovviamente da psicoterapeuta mi viene dire c'è la psicoterapia, ci sono soprattutto delle tecniche di rilassamento che funzionano, che sono un buon rimedio, sicuramente migliore di recarsi spesso e volentieri e malevolmente troppo spesso da taluni medici che prescrivono a grandi e piccini una notevole quantità di psicofarmaci inadeguatamente prescritti, perché quando poi non c'è una patologia vera, lo psicofarmaco altro non fa che rovinare ulteriormente uno stato emotivo già precario. Ecco, probabilmente dovremmo usare di più la nostra fisicità, immagino. Più la nostra fisicità, avvicinarsi a delle terapie, dei rimedi non farmacologici, non preoccuparsi di rivolgersi a uno specialista qualora subentrano attacchi di panico, perché poi uno stress che superi una soglia di sopportabilità può produrre attacchi di panico, può produrre malattie psicosomatiche, può produrre insonnia, può produrre incapacità di concentrazione e tantissimi disagi importanti che caratterizzano poi un cattivo quotidiano, una cattiva qualità della vita. Quindi non preoccuparsi di raggiungere uno specialista, e dico uno psicoterapeuta, ma direi anche una persona che possa accoglierli e ascoltare le loro problematiche, ma senza ridursi ad un uso eccessivo di farmaci. Chiaro, perché non è lì la soluzione, è ovvio, cioè spesso nella maggioranza dei casi immagino non è lì la soluzione, ma è proprio nel cercare di sfogare, diciamo così, questo stress con un altro sistema. Magari poi oggi ve ne racconterò anche uno, anzi sicuramente più tardi alle 11:15 nel nostro spazio dedicato al mondo dei videogiochi. Marina Palumbo, io la saluto molto, la ringrazio e insomma speriamo e auguriamo tutti di essere molto felici, ovviamente. Auguri, buona giornata. Grazie ancora. Che cosa vi rende felici? Ancora, ho rinunciato alla città che amavo, al lavoro che adoravo, ma sono felice perché ho una famiglia meravigliosa e due bambine che mi riempiono il cuore di gioia. Ecco quello che diceva proprio prima Mariolina, cercare di recuperare. Siamo infelici perché pensiamo solo a noi stessi, niente più gratificante di far qualcosa per gli altri. Questo lo scrive Diego in un sms. In effetti la professoressa Palumbo prima diceva un modo per essere felice è proprio riuscire a ridedicarsi agli altri. Io, siccome ho due, sono bipolare, no? Nel senso che da una parte volo, faccio voli pindarici, dall'altra invece sono molto razionale, ho cercato addirittura di chiudere in qualche modo la felicità, magari in una formula matematica. Io non ce l'ho fatta perché non ci ho capito niente, però speriamo che lui possa raccontarmi qualcosa di meglio. E Paolo Gallina, buongiorno, buona domenica Paolo. Buongiorno a lei. È un professore associato di meccanica applicata all'Università degli Studi di Trieste. E Paolo Gallina ha scritto un libro, Fra il serio e il faceto, se non mi sbaglio, giusto? Sì, esattamente. Non è proprio serissimo, è molto, cioè serio dal punto di vista matematico, ma anche divertente da prendere come va preso, intitolato La formula matematica della felicità, edizioni Mondadori. Allora, Gallina, ma esiste veramente, io ho letto la formula matematica, ma c'è quella variabile K che non riesco a, a sistemare? Ecco. Beh, guardi, ce ne sono molte formule della felicità, formule matematiche della felicità. Questa è un po' la chimera di tutti, di voler ingabbiare in qualche maniera la felicità con certo. una formula. Il saggio vuole essere anche un'ironia sui saggi, sulla felicità e anche su se stesso, lo dimostra insomma così il finale un po' autoironico, e dice di non fidarsi molto dei saggi che contengono sul titolo entrambe le parole formula e felicità, insomma. Al di là di questo, comunque c'è del rigore dentro il saggio, che voleva essere un romanzo prima di tutto, però infarcito di esperienze mie personali di felicità e delle ricerche che ho fatto sulla felicità. Ecco, allora possiamo in qualche modo, insomma, prendere spunto dal suo saggio per riuscire a applicare questa formula nella nostra vita quotidiana? Guardi, la formula non è una formula propositiva, non è un elisir della felicità, però vuole mettere in guardia sul concetto della felicità e anche forse sull'attenzione che si dedica alla felicità. Nella mia ricerca, un qualcosa che mi aveva impressionato è ad esempio il seguente dettaglio: in sanscrito vi sono una dozzina di termini per indicare diversi filoni di felicità, diverse sensazioni di felicità. Ecco, in italiano, o comunque nelle lingue così che ci sono vicine, diciamo occidentali, insomma, ne abbiamo solamente uno o due modi per indicare la felicità. Questo è un indice, diciamo, della poca attenzione che viene dedicata al concetto di felicità, che è un po' tabù, no? Non se ne parla più di tanto. Questo non in termini di saggistica, ma in termini proprio personali. Si è sempre alla ricerca di sistemare la propria posizione, ma pochissime volte si riflette su quali sono stati le vere cose che ci hanno reso felici per poi riprodurle. Ecco, sì, perché poi sarebbe quella la chiave, no? Riuscire a ripercorrere, diciamo così, quei passi per riuscire a riessere felici, e poi non si riesce perché ci sono queste famose variabili. Galina, l'ultima domanda che le faccio è questa: qual è, tra le tante che ci sono nel suo saggio, la variabile che più incide in queste formule? Che poi anche nel libro, tra l'altro, la formula stessa viene costantemente, in base proprio alle esperienze di vita, viene costantemente modificata, dico giusto? Sì, sì, certo. Vabbè, allora, do una definizione veloce per indicare, inquadrare un po' la formula. La formula dice che la felicità è legata alla variazione dello stato, quindi all'incremento di una condizione, che possono essere i soldi o la posizione di carriera, legati al tempo. Per cui, per rispondere alla domanda qual è la variabile che più incide, sì, esatto, è il tempo. Il tempo è un qualcosa che mi ha colpito ed è per questo che ho voluto scriverci un romanzo che coinvolgesse felicità e tempo. Potrei citare uno che veramente è molto più titolato di me per parlare di felicità, che è Dan Gilbert, che è uno psicologo americano, il quale, secondo i suoi studi, ha visto che a un anno da un evento traumatico, come può essere rimanere paralizzati in carrozzina, o vincere la lotteria, quindi l'esatto opposto, sì, gli indici di felicità delle persone intervistate e studiate erano più o meno comparabili. Come dire che il nostro cervello ha una capacità di adattamento, per cui non importa il livello che si è raggiunto di benessere, ma importa gli obiettivi e l'incremento che da quel punto ci si pone in avanti. Ecco, Paolo Galina, credo che questo sia un punto da sottolineare, perché davvero è una buona formula per la felicità, perché siccome ci fa sperare nel futuro per forza di cose, no? Ci fa capire che sicuramente migliorerà la situazione, almeno il cervello tenderà a migliorarla. Bisogna fare di tutto per migliorarla. Ma poi a quanto pare il cervello poi lavora, no? Lavorerà, sì, per questo, e quindi possiamo essere sereni, ecco, perché siamo aiutati. Poi dobbiamo anche aiutare il nostro cervello a raggiungere quell'obiettivo. Grazie ancora Paolo Gallina, buona domenica. Grazie a lei, arrivederci. Vi ricordo il libro, La formula matematica della felicità, edito da Mondadori. Gallina prima ha citato il sanscrito, ha spiegato che felicità la si può dire in molti modi, perché ci sono molti modi diversi di esprimere la felicità, e proprio di questo parleremo tra poco con la nostra Francesca Dragotto. Il riposo del guerriero. Stiamo parlando di felicità, alle 10.33, Francesca Dragotto, il nostro ricercatore nel settore glottologia linguistica dell'Università di Roma Tor Vergata. Francesca, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. In piedi già dal mattino presto, perché ci sono quelli che io ho osato chiamare Versi, di suo figlio Diego che ha pochi mesi, ma che invece non si chiamano affatto Versi, ma si chiamano... Vocalizzazioni. Mi ha detto no, solo le vocalizzazioni, guai se non le facesse. Certo, guai, ma noi le chiamiamo, noi poveri mortali le chiamiamo versi e sbagliamo. Però di versi, ma di altro genere di versi, volevo parlare perché cominceremo proprio da lì. Perché il tempo fugge inganna, sempre insieme stan contenti. Queste ninfe d'altre genti sono allegre tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Spero che, Francesco, tu abbia così colto la mia omofonia, no? Versi e versi. Detto questo, detto questo, i versi non sono quelli di Diego, ma sono quelli di Lorenzo il Magnifico, messi in musica da Angelo Branduardi. Allora, partiamo da qui, perché chi vuole essere lieto sia, del domani non v'è certezza. Ecco, la felicità. Sì. È la più nota strofa del probabilmente più noto canto carnascialesco di Lorenzo il Magnifico, un verso che ci porta direttamente, ci proietta nel dominio della felicità, della letizia. La storia linguistica di entrambi questi termini ci proietta ancora una volta in una fase del latino di cui in altre occasioni abbiamo parlato, a cui ci si riferisce con un'etichetta, quella del latino lingua dei contadini. E così, con la stessa logica per cui rivale, prima di essere il concorrente, letteralmente quello che sta dall'altra parte del fiume, che quindi attingendo la tua stessa acqua ti depaupera di quell'acqua, per questa stessa logica lieto, letizia è da ricondurre a un'altra parola che abbiamo in italiano, che è quella di letame. Quindi ciò che è lieto è ciò che è ingrassato, che è fertile, che è stato arricchito con composti organici. Perché? Perché naturalmente farà sì che la terra sarà frugifera, portatrice di frutti. Quindi in qualche modo questo legame della felicità con gli oggetti di cui parlavo prima è anche quasi un legame con la lingua, nel senso che arriva anche da lì, cioè con quello che riusciamo a produrre, ad avere. Sì, l'idea in effetti è di un qualcosa che porterà ad uno stato di felicità, perché è connesso con l'abbondanza, col sostentamento, connesso con la disponibilità di alimenti, ad esempio per la stagione fredda, comunque sì, con l'idea di un benessere che viene da un dato concreto materiale, che è appunto quello della terra, tant'è che abbiamo le prime attestazioni che abbiamo per questo termine, le troviamo sempre in occorrenza con la parola per albero, quindi come sarà poi per Felix, l'albero Felix è l'albero che produce frutti, mentre quello in Felix è quello che non produce frutti. Ah, ecco, quindi insomma è legato proprio a quello che avremo. Tu stai facendo, devo dire, anche così un altro studio sulla parola felicità, che non so se vuoi accennare, perché magari, sì, è un po' osé, diciamolo, però insomma può essere interessante. Oh, questo sicuramente. Parliamo ancora una volta di una radice contadina per Felix, il cui significato originario è di fecondo, fertile, appunto come dicevo produttore di frutti, proprio perché in tutte le prime attestazioni lo troviamo insieme alla parola per albero. In questo senso la parola costituirebbe proprio un doppione del latino fecundus. Il significato che però ha oggi in italiano, come per letus, è posteriore. Quello che non ho detto a proposito di leto, di lieto e di letizia, è che se oggi parliamo di gioia quando diciamo letizia o appunto lieto, è perché la lingua della liturgia, dovendo rendere termini che erano propri della lingua greca e che erano connessi con l'idea della beatitudine, ha preso i termini originariamente agricoli del latino, dando loro un nuovo significato. Quindi ha fatto un'operazione linguistica che chiamiamo calco, è stato ripreso un significato da un'altra lingua ed è stato aggiunto ai significati che la parola aveva. E appunto, come per lieto, anche per felice, il significato legato alla sfera della gioia si ottiene per un calco su termini del greco, in questo caso makairos, si è andato ad aggiungere al latino felix, rendendolo beato, felice, propizio, perché favorito dagli dèi. Se guardiamo invece indietro, come appunto stavi accennando tu, alle origini del latino, ad una fase etimologica il più possibile remota e ricostruita, allora potremmo forse ipotizzare per felix un antecedente che è Fela, mammella. Allora, se così fosse, l'idea della fertilità andrebbe riscritta come una fertilità non legata alla terra, ma legata al latte, alimento nutriente necessario al sostentamento del neonato. E di questo significato purtroppo non abbiamo tracce nelle attestazioni latine, però ipotizzarlo non è inverosimile sulla base appunto di tutta quanta la sfera del nutrimento che abbiamo attraverso i frutti. Ora, accettando questa ipotesi, quindi accettando di ricondurre Felix a un fe, la mammella, potremmo forse spiegare l'accostamento di Felix a fello succhiare, che poi ritroviamo nel corso di tutta la storia latina prima e poi italiana, in un dominio sessuale, che è quello appunto della fellazio e della pratica. Quindi, ecco, in questo senso quindi la felicità è legata al piacere di conseguenza. Sì. Ecco, quindi sì, sono i due aspetti, diciamo così, della felicità, perché in effetti il termine felicità può voler dire molte cose, cioè ci muove anche nel nostro immaginario molte sensazioni. Per cui ci può stare, credo, anche questa spiegazione. Molte sensazioni, ma che in principio sono sempre materiali, che soltanto in una fase posteriore, imperiale, se vogliamo cercare un primo momento in cui le troviamo attestate, diventano immateriali. Ma inizialmente l'essere fecondo e quindi l'essere felice, l'essere lieto, ha a che fare con la sfera del materiale. Grazie Francesca Dragotto, ci sentiamo grazie la settimana prossima, che abbiamo una puntata tutta con te. Adesso non voglio anticiparla, ma sarà, devo dire, credo e spero, ma sicuramente con te lo sarà, interessante. Grazie Francesca, grazie, buona domenica. Voi, buona domenica. Oh, c'è Andrea Giovanali, presidente fondatore del sito Nexplora, che facendo ricerche di mercato, chiedendo al popolo della rete, perché molte ricerche vengono fatte, anzi penso tutte, attraverso la rete. Dimmi se sbaglio, Andrea, ciao, buona domenica. Ciao, buona giornata a tutti. Bah, non tutte, non diciamo, tutte, ecco. Recentemente diciamo si adotta un po' di più anche internet per fare ricerche, questo sì. Anche perché è un mezzo più veloce e anche forse già incastra le risposte e già riesce a predisporle per essere poi elaborate. Esatto. Allora Andrea, nelle vostre ricerche, quelle che avete fatto, tu ti sei fatto un po' un'idea di cos'è la felicità per gli italiani in questo momento storico? Sì, ma noi abbiamo chiesto per 4 settimane a circa 800 persone di attribuire un voto da 1 a 10 alla propria felicità nell'ambito, diciamo, del popolo dei navigatori di internet. Sì. Dobbiamo partire dal presupposto che oggi quasi un 50% della popolazione italiana ha accesso a questo strumento in misura maggiore o minore, che è un potente strumento chiaramente di informazione, di comunicazione con gli altri e anche di espressione un po' del proprio punto di vista. Basta, no? Guardare il censimento, il primo giorno appena uscito e tutti si sono buttati sulla versione online facendo saltare il sito, quindi vuol dire che gli italiani comunque finalmente cominciano a usare la rete, questo si muovono anche bene, immagino, anche tutti insieme, per cui vabbè, scusa. Esattamente, no, figurati. Allora, diciamo che quello che noi abbiamo tratto sono delle cose interessanti. Allora, da un lato, in generale, gli uomini si tendono ad attribuire un voto un po' più alto a delle donne, e quindi noi abbiamo una quasi sufficienza per le donne, quindi un voto 6,2 contro un voto 6,6 dato in generale dagli uomini. No, scusami, quindi vuol dire che gli uomini tendenzialmente sono un po' più felici perché siamo un po' più stupidi, questo è. No, vediamo no, un po' meno le cose, diciamo, come sono sta. Un po' più felici o sopravvalutano, ah, okay, diciamo, okay. Ecco, diciamo il proprio umore. Sai il nostro essere Peter Pan sempre, no? Che ci fa vedere, ecco, abbiamo sempre quel mezzo sorriso un po', tra virgolette, stupido, ma lo dico in senso sono buono. Sono un po' più orgogliosi nel dirsi che sono felici, o le donne sono più pragmatiche. Sì, ecco, più esatto, certo. Ecco, diciamo, sì. Questo potrebbe essere anche un'altra lettura. Uomini che diciamo hanno un picco inferiore di felicità nella fascia 18-30 anni, e su questo forse veniamo, diciamo, in qualche modo a confermare, no, la situazione un po' generale in questo momento. Mentre invece vediamo interessante le donne che in tutte le quasi le fasce di età tendono ad avere un poco più della sufficienza in termini di felicità e che invece raggiungono un picco di felicità sopra i 55 anni. Un po' come quando forse a dire abbiamo terminato un po' tutte le nostre fatiche, sì, no? Riferite al ruolo di donna, no? Ecco, un altro tema interessante riguarda il meridione, dove tocchiamo invece una non sufficienza. Nel sud, le donne del sud in particolare ci danno un voto che è sotto il 6, questo in generale come media. Poi abbiamo indagato anche quali sono le ragioni a cui si attribuisce un diverso, ecco, lavoro ecco, scusami, Andrea, ti interrompo un attimo perché poi le vedremo, perché vorrei parlare in un modo più approfondito, ma avevo una curiosità. Cameron, nelle sue domande legate quindi alla nazione, ovviamente ai cittadini, c'è anche che grado di istruzione avete. Allora vorrei sapere se, ovviamente nelle tue domande, questo non lo so, rispondimi tu, il grado di istruzione influisce sulla felicità o non hai potuto vederlo o lo sai? Diciamo che, ecco, visto nell'ambito di chi poi impiega internet, noi sappiamo che c'è una componente chiaramente di maggiore istruzione media per chi oggi può permettersi e accedere anche a questo tipo di strumenti, ma il tema è un po' controverso, no? Perché istruzione significa avere anche ovviamente maggiore possibilità e opportunità di accedere all'informazione. Sappiamo, come diceva la psicologa precedentemente, che oggi essere esposti all'informazione di quello che avviene è uno degli elementi o uno dei fattori, diciamo, anche di infelicità, di ansia, di angoscia, no? Quindi in generale io direi di sì, l'istruzione è sicuramente un veicolo importante di accesso alla felicità, si ha maggiore consapevolezza delle proprie opportunità e di quello che accade nel mondo e quindi anche nella capacità di poter confrontarsi con gli eventi del mondo. Aspetta, adesso tra poco invece vedremo quali sono le cose che ci rendono felici, gli aggiornamenti sul traffico e poi torniamo con Andrea Giovenali. Il riposo del guerriero. Con Andrea Giovenali, presidente fondatore di Nexplora, stiamo cercando di capire cosa rende felici gli italiani. Abbiamo fatto già una prima divisione fra uomini e donne, nord e sud, ma adesso invece veniamo ai temi che ci rendono o ci renderebbero felici, non lo so, Andrea. Allora, in generale il weekend è il momento di picco della felicità, questo lo immaginavamo, arriviamo quasi a un voto di 7, no? Nell'attribuzione del proprio livello di umore e di felicità. I figli danno sicuramente grande felicità, la famiglia in generale, la vita di coppia, gli affetti sono gli aspetti a cui si attribuisce, diciamo, per la maggior parte dei nostri intervistati il proprio buon livello di felicità e di buon umore. Però sono anche ragioni di infelicità, nel senso che se noi guardiamo per esempio quello che accade tra giorni feriali e giorni festivi, si passa ad attribuire dal 14% dei giorni feriali a un 20% alla famiglia la ragione delle proprie infelicità, oppure la vita di coppia, l'11% durante la settimana lavorativa, il 21% delle persone ci dice che la vita di coppia è ragione di infelicità durante il fine settimana. Ovviamente abbiamo un'inversione per quello che riguarda il lavoro come aspetto di causa della propria infelicità, che è per il 17% durante la settimana e solo il 6% durante il fine settimana, mentre invece la salute, che sembra un po' coincidere con il lavoro come aspetto, diciamo, di felicità, passa da un 11% durante i giorni feriali ad un piccolissimo 2% durante... Perché io credo che allora sia... ci sia anche una ragione psicosomatica, no? Per cui comunque il fatto di essere più sereni durante il weekend, perché non si va a lavorare, almeno per molti è così, li faccia anche star meglio fisicamente proprio. Invece quando devi affrontare la giornata, già psicologicamente magari ti metti in modo che, insomma, anche fisicamente non ti senti bene, ti senti acciaccato, eccetera, no? Potrebbe anche essere una spiegazione. La ragione, diciamo, invece, è che purtroppo, dato il momento, continua ad essere ragione di felicità in modo assolutamente equivalente durante la settimana feriale e il fine settimana, ed è anche ragione di bassissima felicità, è il tema finanze. Quindi circa un 20% delle persone ci dice che durante la settimana lavorativa e durante il fine settimana rappresenta e costituisce la principale ragione di infelicità e di preoccupazione e anche di basso livello del proprio umore. Ecco, senti Andrea, volevo chiederti, sono stato molto colpito dal fatto di Roma, cioè quando è stata aperta questa catena, questo nuovo negozio di tecnologia con grandi sconti annunciati, la città, almeno in quella zona, si è bloccata perché tutti sono andati a comprarsi qualcosa e questo mi ha colpito, nel senso, in un momento comunque di crisi i soldi mancano, eccetera, per cui insomma magari sono cose delle quali potremmo anche fare a meno, immagino, però... quanto ci rende felici possedere? Ecco, era poi la domanda che avevo fatto all'inizio anche alla Palumbo. Noi possiamo leggere questa informazione da una ricerca che abbiamo condotto su 1000 persone recentemente a riguardo di che cosa e come ha impattato la crisi in questo periodo sugli orientamenti ai propri acquisti e consumi. E devo dire in maniera relativamente sorprendente, noi quello che abbiamo visto è che in generale indubbiamente questa fase ha impattato, ha calmierato, come si dice, un pochino, sì, l'orientamento delle persone su quasi tutto, dai beni di prima necessità fino agli aspetti, diciamo, relativi al tempo libero. Ma se è vero da un lato che si è meno rinunciato ai beni di prima necessità e che soltanto un 34% delle persone lo ha fatto, molto di più si è rinunciato a ristoranti, cinema e viaggi per circa un 60% delle persone. Le tecnologie, quindi la componente, diciamo, relativa a elettronica di consumo piuttosto che appunto personal computer, in realtà sta a metà classifica, cioè le persone hanno rinunciato, ma non rinunciato in maniera così decisiva, così importante, come forse il budget, i costi, diciamo, di questi apparati avrebbero dovuto teoricamente consigliare, perché sì, sappiamo che sono oggetti che impattano a livello economico, insomma, sicuramente. Ma questo è un po' a riprova di quello che un po' sappiamo, ecco, che si dice spesso che l'italiano tende a, diciamo, non voler rinunciare, diciamo, all'oggetto tecnologico anche in un momento di crisi come questo, per l'amor di Dio, cioè, c'è stato sicuramente un calo, ovviamente, ecco, ma tra le tante cose si preferisce uscire una volta in meno a cena evitare di fare un piccolo corto weekend. Ma non si rinuncia allo smartphone o al tablet, ecco, questo l'abbiamo capito. Andrea, ti ringrazio, vi ricordo il sito nexplora.com perché potrete partecipare anche voi attivamente a quello che sono appunto le indagini, le ricerche e le idee. Grazie ancora Andrea, grazie, ciao, mille, buona domenica. Giornata, ciao. Buona giornata. Esther Gazzano, buona domenica. E buongiorno, buona domenica. Esther è l'ideatrice di questa iniziativa, si chiama Settimana del Gioco in Scatola. Abbiamo visto, abbiamo sentito prima Andrea dire che una delle fonti di felicità in assoluto, soprattutto il weekend, è la famiglia, e quindi vi invitiamo in 100 comuni, tra i quali Milano, 100 città, grande e piccola, oltre 100 locali, 50 scuole. Cosa succede, Esther? Esatto, diciamo che per noi l'idea alla base di tutto è che stare intorno ad un tavolo a giocare con la propria famiglia e i propri amici effettivamente renda felici. Questo perché? Uno, perché aiuta l'interazione sociale positiva, che sappiamo che al giorno d'oggi purtroppo diciamo che le occasioni per passare del tempo di qualità insieme non sono molte, e due, aiuta a creare un vissuto legato a momenti di puro divertimento a cui effettivamente si può attingere poi in futuro. Chi di noi non ha dei ricordi esilaranti legati ai momenti di gioco, ad esempio? Siccome però sappiamo che gli italiani, e questo lo sappiamo dai dati di mercato del settore, giocano un po' di meno rispetto ad altre popolazioni come i francesi, i tedeschi, gli inglesi, abbiamo deciso di farli giocare tutti per un'intera settimana, di organizzare la settimana del gioco in scatola. Dal appunto. 12 novembre. Esatto, dal 12 al 20 novembre facciamo giocare tutta l'Italia, hai dato già tu i numeri, diciamo così, quindi ci sono oltre 100 comuni che aderiscono a questa iniziativa, è un network di 100 locali, pub, oratori, e per scoprirne di più, quindi per sapere tutto quello che succederà in questa settimana, si può andare sul sito stasera si gioca.it e trovare appunto gli eventi più vicini dove poter partecipare. Ecco, è un evento assolutamente gratuito, aperto a famiglie e amici, si gioca a Monopoli, Trivia Pursuit, Cluedo, Indovina Chi, Forza 4, Tabù, Twister, insomma giochi molto molto conosciuti, e poi addirittura c'è un premio, un piccolo omaggio per chi parteciperà a questa iniziativa? Sì, diciamo che l'evento più importante, quello di lancio, è quello, sì, che si terrà a Milano il 12 novembre al Forum d'Assago dalle 15 di pomeriggio, e invitiamo tutte le famiglie all'ascolto ad iscriversi su stasera si gioca.it, e durante questo evento, dove vogliamo mettere insieme il maggior numero possibile di famiglie, perché proprio come dicevate è veramente quello che dà poi la felicità agli italiani, dove eleggeremo la famiglia in gioco 2011, quindi alla famiglia in gioco 2011 super premi, ma naturalmente a tutti i partecipanti ci saranno premi e naturalmente in giochi proprio per potersi divertire sempre di più con i propri amici. Allora iscrivetevi gratuitamente sul sito www.stasera si gioca.it. Esther Gazzano, ci vedremo il 12 a giocare a Milano, ciao, buona domenica. Perfetto, grazie mille. Grazie, a voi. Ciao, il gioco in effetti è qualcosa che insomma a me diverte, ma non soltanto a me, è davvero un bel modo per essere uniti. A posto di felicità, voglio anche ricordarvi che da questa settimana con il Sole 24 Ore domenica comincia una collaborazione collaborazione con Andrea Camilleri, questa settimana già con un primo racconto e poi ogni settimana un nuovo racconto intitolato, con una rubrica intitolata Posa Cenere, per cui vi invito a leggerlo, perché onestamente leggere Camilleri davvero dà, dà felicità e dà piacere, e a me devo dire anche rasserena. Il riposo del guerriero. Le 11.07 minuti, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, continua il riposo del guerriero. Vi ricordo il numero verde, perché alle 11.30 ci sono 1000 euro per voi, per il mistero in 24 minuti, 1000 euro, ammesso che riusciate a risolvere il mistero, speriamo di sì questa settimana. Prenotatevi 800 24 00 24, stiamo parlando di felicità e abbiamo capito anche come la tecnologia può renderci felice, soprattutto quando diventa veramente accessibile. Per questo sono con Gaetano Torel al telefono. Buona domenica, Torel. Buona domenica. Amministratore delegato di Ford, perché al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano c'è una mostra che andrà avanti fino al 20 novembre dedicata proprio alla tecnologia accessibile. Esatto, esatto, sì. È una mostra che abbiamo fatto per riprendere un po' quelle che sono le fondamenta del nostro fondatore Henry Ford, che insomma in qualche modo ha inventato la mobilità per tutti, e la tecnologia diciamo che in qualche maniera è un po' la mobilità del XXI secolo e che deve essere accessibile, quindi spieghiamo in maniera divertente per i bambini, per le famiglie, per tutti, che cosa vuol dire il concetto della democratizzazione della tecnologia. Ecco, facciamo qualche esempio di questi concetti, anche di quello che si può poi fare, perché è una mostra interattiva, quindi è possibile proprio provare, toccare con mano e guardare gli effetti. Sì, sì, sì, sono delle sezioni, ogni sezione è ispirata a un tema, della qualità, la sicurezza, le qualità dinamiche dell'automobile, e ci sono una serie di piccole tecnologie che sono spiegate, sono tecnologie che oggi in qualche modo modificano il rapporto tra il consumatore e l'automobile, tecnologie semplici, tecnologie che vengono utilizzate tutti i giorni, per esempio i fari che si accendono e si spengono da soli, quindi non c'è più bisogno di accendere i fari dell'automobile, ma quando c'è l'imbrunire i fari si accendono da soli, così come gli abbaglianti quando si va in una strada per esempio molto buia, gli abbaglianti vanno su da soli e anche vanno giù da soli nel momento in cui c'è un'automobile che si incrocia oppure c'è un'automobile davanti, quindi per non dare fastidio, oppure l'automobile che parte da sola senza bisogno di utilizzare le chiavi, quindi le chiavi rimangono in tasca e si entra, si spinge un pulsante e l'automobile parte. E ecco, tecnologie tutte molto, diciamo, molto alla portata della famiglia media e che in qualche modo semplificano il rapporto tra l'automobile e il consumatore e lo rendono anche più sicuro, ovviamente. Il tutto fino a tecnologie ancora molto più sofisticate, molto sull'entertainment, sulla possibilità un domani di avere l'automobile che diventa un wifi spot, praticamente un posto dove la connettività, diciamo, che si ha oggi a casa è garantita anche in automobile. Una sorta di hub, come si usa dire adesso, no? Parola che comincia a entrare anche nella nostra lingua quotidiana. Gaetano Torel, a che punto siamo di questa democratizzazione della tecnologia, secondo lei? Beh, insomma, l'automobile ha fatto molto, se parliamo di automobile, l'automobile sta facendo molto per cercare chiaramente di spalmare la tecnologia su un numero molto molto alto di veicoli e quindi renderla accessibile alle grandi masse. Questo chiaramente è uno degli obiettivi principali delle case. Per quanto riguarda Ford è proprio parte del nostro DNA. Noi viviamo, siamo in qualche modo sul mercato per il concetto proprio del valore, che chiaramente è inteso proprio come la possibilità alle grandi masse di accedere a tecnologie normalmente molto sofisticate e quindi poco accessibili. Questo si fa grazie alla possibilità di spalmare le tecnologie su grandi numeri, quindi un marchio globale come Ford gli consente, chiaramente a noi è consentito di sviluppare tecnologie su parecchi milioni di automobili, basti pensare alla Focus, che è un'automobile totalmente globale, insomma noi la vendiamo da Pechino a Los Angeles e praticamente l'automobile per l'85% dei particolari è la stessa. Questo significa costruirne 2 milioni, più di 2 milioni l'anno, e questo ovviamente consente di sviluppare tecnologie che poi possono essere date ai consumatori a dei prezzi molto accessibili. Chiaro, diventa quindi accessibile da un punto di vista economico, ovviamente. Sì, quindi siamo, devo dire, a buon punto. La ringrazio, Gaetano Torel, buona domenica ancora. Grazie. Amministratore delegato Ford, vi ricordo il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano fino al 20 novembre, questa mostra dell'interattiva dedicata proprio alla tecnologia accessibile a tutti, e quindi parlando di tecnologia e di felicità non poteva mancare Marco Montemagno, il nostro esperto in nuove tecnologie, rete internet. Ciao Marco, buongiorno. Ciao Ste, buongiorno a tutti. Senti, diciamo che questa settimana che avete fatto dedicata al mondo della tecnologia ha funzionato, forse poi avete anche presentato la mostra di cui ho appena parlato, vero? Sì, è stata l'inaugurazione, l'abbiamo fatta insieme, quindi si è sposata molto bene con una settimana di divulgazione di opportunità della rete. La Social Media Week, così si è chiamata quella settimana, ne avevamo parlato. Marco, la tecnologia quanto ci sta rendendo felici o infelici, secondo te? Io sono senz'altro un ottimista, peraltro sto leggendo un libro che suggerisco a chi ha voglia di approfondire questo tema, no, della felicità e della tecnologia, che è un libro scritto da un giornalista inglese che si chiama An Optimist View of the Future, una visione ottimistica del futuro. Non prendo purtroppo percentuali sui libri suggeriti, però, però devo dire molto interessante, perché si vede come la tecnologia stia cambiando, stia diventando più facile, più economica, riguarda il mondo e va a impattare da quello che può essere i grandi temi, cioè voglio fare un esame del mio DNA a costi ormai bassissimi per capire quali sono le malattie che posso prevenire, ottimo, oggi lo posso fare, fino alla possibilità di trovare lavoro o al fatto di dire voglio in un momento di crisi così cercare di fare qualcosa, di produrre qualcosa per avere delle possibilità in più, compro una videocamera che ormai costa 100 euro, 150 euro, faccio dei video in alta definizione che possono essere visti in tutto il mondo, no? Quindi spazio veramente dalle cose più semplici o che riguardano il lavoro alla salute e alla felicità in generale. Quindi io ho una visione sempre molto positiva della tecnologia. E l'altra cosa, secondo me, interessante è che le persone sovrastimano quello che succederà tra un anno e sottostimano quello che succederà tra 5 anni, e quindi se noi pensiamo con una visione un po' più lunga, di più lungo periodo, quelle che sono le tecnologie che stanno nascendo oggi avranno un impatto enorme. Nel giro di 5 anni saremo veramente tutti molto molto digitali, e quindi questo poi starà a noi viverlo nel modo migliore, facendo le scelte giuste. Ecco, a proposito di stare a noi, nel senso, noi italiani ancora di... Allora, intanto devo dire che mi ha molto impressionato in positivo, e l'avevo già detto prima, il fatto del censimento online che ha invaso il server, tant'è che si sono bloccati, perché neanche il ministero si è reso conto di quanti italiani in effetti hanno capito la comodità di usare la rete in questo senso, no? Devo dire che adesso i biglietti del treno cominciano a essere acquistati. Allora, noi ci stiamo muovendo bene o siamo ancora, rispetto agli altri paesi, un po' il fanalino di coda? Speriamo di no adesso. A parte l'accesso alla rete, che è ancora forse un problema per alcune zone dell'Italia, ho visto le percentuali ieri. Ma io proprio di recente ho visto, abbiamo organizzato un intero treno caricandolo di startup, cioè di ragazzi che vogliono lanciare delle aziende nel mondo internet, sì. E abbiamo riempito un intero Frecciarossa e ho visto 600 persone che nonostante tutto dicono ok, noi andiamo a fare qualche cosa che riguarda lanciare un'azienda internet o cose del genere. Quindi io vedo, diciamo, un movimento molto sotto traccia di persone e realtà che stanno facendo un sacco di cose, e abbiamo moltissimi talenti in Italia. E poi c'è una cultura che ancora è un po' arretrata. Io arrivo da una riunione di genitori, avendo due figli, e una signora ha detto ci sono studi scientifici che dimostrano che Facebook fa male ai bambini. Ecco, no? Siamo a posto. Io tra poco parlo di videogiochi, vedi tu come siamo messi. I luoghi comuni, no? D'altronde Facebook fa 22 milioni di persone, 800 milioni di persone nel mondo, no, non puoi trascurare un fenomeno del genere. Come al solito dipende che uso. Come lo usi, chiaro. Quindi certo. Io ho anche in questa una visione positiva, dire che vedo un'Italia che sta andando molto avanti, poi senz'altro ci sono delle fasce che arrivano prima e fasce che arrivano dopo. Ma tu sei un felice di natura, Marco, siamo in due, voglio dire, perché è l'atteggiamento propositivo verso le cose, e per cui speriamo di riuscire a dare questa stessa carica agli ascoltatori in questo momento. Grazie Marco, ciao, ci sentiamo ovviamente molto presto. Grazie. Il riposo del guerriero. insomma, la felicità è ovviamente, abbiamo sentito, è tante cose, ma sicuramente è emerso il fatto che stare con le persone che vivono con noi, la nostra famiglia, i nostri figli, le persone che amiamo, speriamo di averle ovviamente, le persone che ci amano e che ci vogliono bene, comunque sia, è un indice di felicità, è un motivo per essere felici. Abbiamo anche scoperto che il weekend è proprio il momento dove la felicità si affaccia di più alla nostra finestra, meno male. Parliamo di videogiochi perché ne ho parlato anche qualche puntata fa, i videogiochi hanno invaso Milano con un'iniziativa, ma soprattutto c'è un gioco del quale voglio parlarvi e che potrebbe aiutarvi a essere più felici. Video game, video game. Allora, intanto fino a oggi c'è questo evento che si chiama Games Week, sono stati 3 giorni di puro divertimento dedicato al mondo dei videogiochi, grande successo, onestamente ieri ero lì, tantissime famiglie, tantissimi ragazzi, ragazze per giocare, divertirsi, stare insieme, anche momenti di spettacolo, oggi ancora fino credo alle 19.30 la fiera è aperta, siamo a Milano all'ingresso 3 della fiera Milano City, quindi se volete portare i vostri figli o andarci, Games Week fino ad oggi c'è. E il gioco del quale voglio parlarvi oggi sta per invadere, diciamo così, le nostre case. Ecco, loro sembrano molto carini, si chiamano Rabbids, che è un gioco di parole che sta tra coniglio ma particolare, perché i Rabbids stanno per invadere le nostre case. Il titolo del quale vi parlo si chiama Rabbids fuori di schermo, perché grazie all'integrazione su Xbox 360 con Kinect, che è la periferica che permette di leggere i vostri movimenti, dà la possibilità di vedere l'invasione di questi cattivissimi ma simpatici conigli in casa vostra. Allora, è uno dei primissimi giochi che usa la realtà aumentata. Cosa significa? La telecamera Kinect inquadra la vostra stanza dove siete voi, voi vedete voi stessi e la replica della vostra stanza nel monitor, nello schermo televisivo, e i conigli invaderanno proprio fisicamente la vostra camera, cioè dove siete a giocare, li vedrete proprio uscire dall'armadio, uscire dal pavimento, fa molto ridere. Il vostro scopo, e adesso qui arriviamo, è quello di risolvere ed eliminare, speriamo per sempre, lo stress e l'ansia, prendendo a schiaffi, a calci, a pugni e in tutti i modi facendo scherzi ai vostri Rabbids, perché siccome sono simpatici ma sono anche piuttosto invasivi, dovete cercare di liberarvi di loro. Quindi un gioco che mette alla prova sicuramente i riflessi da un certo punto di vista, però anche la vostra capacità di sfogarvi e quindi di sfogare le vostre energie. È una terapia, gli americani sapete che danno un nome a tutto e hanno dato un nome anche a questa terapia, si chiama Bang Bang Therapy e la stanno proprio studiando, cioè l'importanza di sfogarsi fisicamente prendendo a schiaffi, a calci degli esseri inanimati ovviamente, quindi assolutamente virtuali e che non si fanno male in nessun modo, diciamo questa terapia aiuta davvero a scaricare lo stress e funziona, è un po' come i vecchi scaccia stress, sapete, quelli che si toccavano, che si tenevano in mano e si tiravano e ci sono sempre stati, però questa è la versione, diciamo così, elettronica. Si può giocare con fino a 4 amici, quindi sfidarsi con gli altri, oppure ovviamente giocare da solo. I Rabbids sono un fenomeno perché nel 2013 ci sarà una serie televisiva di cartoni animati dedicata esclusivamente proprio a questi personaggi e pare che la Bang Bang Therapy funzioni, per cui è un modo per essere forse più felici cercando di sfogarsi completamente. La cosa curiosa, fra l'altro, di questo videogioco è anche il fatto che molto divertente, dovete giocare a nascondino, cioè nel senso che i Rabbids cercano di trovarvi nella stanza e voi dovete nascondervi per non farvi vedere, fa molto ridere perché li vedrete che vi cercano, proprio si muovono nella camera. In più ne avrete uno che invaderà la vostra stanza e al quale dovrete fare una serie di scherzi, per cui insomma un bel modo, una sorta di Amici Miei tecnologico, ecco qua. Quindi se volete divertirvi ovviamente con tutta la famiglia, Rabbids fuori di schermo, forse anche per risolvere il proprio proprio stress e la propria ansia. Abbiamo sentito prima Andrea Giovenali dire che pare, insomma, dalla ricerca che ha fatto, la gente in questo momento spenda più volentieri, malgrado la mancanza di fondi, ma spenda più volentieri per la tecnologia piuttosto che per i ristoranti. Sentiamo, abbiamo sentito cosa ha detto il nostro Presidente del Consiglio recentemente, ma sentiamo cosa dice il nostro gastronauta. Ascoltate, Uliveto, acqua della salute, aiuta a digerire meglio. Vi presenta il gastronauta. Davide, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Secondo me siamo al ristorante con il tablet, cioè non rinunciamo né uno né all'altro, però non lo so. Secondo te qual è la tua percezione? Beh, il problema è che se si fanno vedere i dati, negli ultimi 40 anni la spesa alimentare è sempre rimasta stabile, mentre è cresciuta quella sulla tecnologia. Certo. Quindi mi sembra evidente e scontato questo. Poi andare a mangiare col tablet credo che sia una grande stupidaggine. No, ma scherzo, perché chiaramente è un modo per unire le due cose, no? Perché qualcuno non si divide più dal proprio tablet. No, purtroppo succede, perché si vede ormai la gente, io ieri viaggiavo in treno e stavo notando, avevo di fronte e di fianco a me due persone le quali nel tragitto Firenze-Milano non hanno mollato un secondo il cellulare, quindi credo che ormai sia talmente evidente questo, pure anche al ristorante si vede gente che mangia, che risponde completamente, continuamente al telefono, i trilli girano, ma credo che ormai questo sia diventato nella consuetudine. Che i ristoranti siano pieni bisognerebbe andare a vedere a mezzogiorno, sono semi vuoti i ristoranti a mezzogiorno, quindi la gente a mezzogiorno non va più a mangiare per un motivo: uno, per il costo; due, perché ormai diciamo le aziende hanno tagliato le note spese, e quindi a mezzogiorno i ristoranti, soprattutto quelli di grande qualità, quelli diciamo stellati, veramente fanno il vuoto, mentre poi magari alla sera recuperano. Diciamo che ci sono anche delle consuetudini e delle abitudini che sono completamente cambiate, sicuramente il fatto economico ha influito, ma poi ha influito anche un tipo, come posso dire, un nuovo modo di vivere, cioè si vive di fretta, quindi vedi a mezzogiorno le file di fronte ai bar che mangiano il panino rapidamente, oppure entrano dentro, prendono il pezzetto di pizza, escono fuori. Questo sicuramente nelle grandi città, ecco, in provincia e nei piccoli centri succede di meno, ma ormai purtroppo è così. Non c'è. Però devo dire che a mezzogiorno moltissimi ristoranti, anche stellati, e non soltanto, però insomma, anche la maggioranza, ormai offrono dei pranzi a prezzi interessanti, insomma siamo intorno ai 10 euro, non parlo degli stellati, parlo degli altri. Sì, però il problema è che la gente, ad esempio, dei ristoranti, chiamiamoli così, di superiori, chiamiamolo così, di livello superiore, dice: ma perché io devo andare in un ristorante stellato e poi farmi dare un piatto solo che loro hanno scelto? Allora tanto non ci vado, vado a mangiare due o tre volte in un posto che spendo meno, poi magari una sera mi permetto di andare in quel posto. Io credo che sia un po' questa la mentalità. Certo che ci sono anche delle esigenze, uno arriva in una nuova città per lavoro, poi va a mangiare magari in un ristorante che offre un cibo, un pranzo a 10 euro. Però io vedo che quelli con i cartelli fuori che offrono, fanno queste offerte, non sono molto pieni. La gente è titubante e anche sospettosa quando vede un pranzo a 10 euro composto da un primo, un secondo, caffè e mezzo litro d'acqua. Insomma, si possono cominciare a fare i calcoli. Cioè, mi chiedo cosa si mangia, questo è il punto. Sì. Ma io credo che la trasformazione ormai è in atto, sociale, economica, non c'è niente da fare. Credo che anche molti ristoranti dovranno rivedere i loro menu, dovranno rivedere cosa offrono, dovranno rivedere tantissime cose. È inutile illudersi o essere così, pensare che domani possa cambiare tutto all'improvviso. Ormai questa è la realtà, ma non è solo da noi. Certo, se uno va a Londra vede che c'è una buffata di cibo incredibile, che bisogna prenotare i ristoranti con 3 settimane d'anticipo a dei prezzi veramente che... Beh, c'è un'altra educazione del cibo comunque. Appunto, lì si va una tantum a mangiare fuori, mentre da noi magari ma molta gente prima andava tutti i giorni a mezzogiorno a mangiare in trattoria o al ristorante. Sì, era più facile. Senti, non so se hai qualche dato, ma invece sui vini come ci si comporta? Si continua a spendere volentieri o anche lì secondo te c'è un freno? No, anche i vini ci siamo un po' abbassati di prezzo, nel senso che sempre di più si beve un calice. A mezzogiorno poi, se tu guardi in qualsiasi locale tu vada, che sia un locale da 10 euro o da 40 euro, se tu osservi i tavoli vedi che quasi nessuno beve vino a mezzogiorno. Vedi delle gran bottiglie d'acqua minerale e basta. Beh, la scusa è la dieta e il fatto che il vino fa venire sonno, non puoi lavorare dopo. Sì, no, a molti può essere anche vero, però diciamo che cioè, se tu vai a mangiare da solo, come succede spesso a mezzogiorno, uno che è fuori per lavoro, cioè il vino incide in maniera incredibile, perché se tu prendi una bottiglia, non dico 15 euro su un pranzo ti incidono in maniera sicuramente molto rilevante. Infatti si dovrebbe prendere un calice, no? Perché... sicuramente un calice, sai, io l'altro giorno, però ti posso raccontare sì, una cosa che mi è capitata. Sono andato in un ristorante e ho chiesto la carta dei vini a calice e ho visto, eravamo in tre persone, ho visto che il calice, quello che costava meno, costava 8 euro. Allora ho fatto i calcoli, io ho detto, beh, siccome siamo in tre, se beviamo due calici, bene, allora sono 3 per 8, 24, complessivamente, se beviamo due calici, 48. Allora certo, mi porti la carta dei vini. Infatti... lo stesso vino costava a bottiglia 0,750, 40 euro. Spesso anch'io faccio quel tipo di calcolo e alla fine prendo la bottiglia, se sei in due, sì, ecco, da soli no, ma in due sì, sicuramente. Se due o tre, sì, diciamo che, però... ci sono anche ristoranti che hanno del calice a 2 euro e mezzo, insomma. Va bene quando ognuno vuole un vino diverso, no? Allora a quel punto non stai a prendere tre bottiglie diverse, ma ognuno prende il suo calice, funziona in quel comunque punto, la musica no, è cambiata sicuramente, ma non da 3 mesi, 6 mesi, ormai la musica è cambiata a tavola da, secondo me, da 2 anni, che c'è questa evoluzione che pian piano è emersa e magari anche cioè, il discorso del... Io credo che tornerà il pranzo fuori porta la domenica, devo dire questo, ho questa convinzione che molta gente, cioè non è che tutti i weekend la gente potrà andare fuori, e quindi sempre di più si andrà a pochi chilometri e tornerà molto la trattoria fuori porta. Ovviamente se ridimensionerà i prezzi e nel frattempo quella trattoria non sarà montata la testa e sarà diventato ristorante che si chiede stellato. Ecco, questo verrebbe anche incontro a quello che è emerso oggi, cioè la necessità di essere felici stando proprio con la famiglia, e questo avviene maggiormente nel weekend perché chiaro si ha più tempo per farlo, e quindi anche l'essere insieme a tavola, mangiare, dedicarsi a un buon pranzo senza che ci si debba dedicare ai fornelli, quindi avendo più tempo per i propri cari, sicuramente anch'io vedo un futuro in questo senso, cioè come era nel passato, speriamo che sia così. Ma mi permetti un'osservazione? Sì, certo. Il problema è che sicuramente mangiare assieme, soprattutto in famiglia, vuol dire anche educare i figli a molte cose, nel senso anche a rispetto per il cibo, rispetto per il pane, ad apprezzare tante altre cose, però il problema è che il discorso della famiglia, visto la disgregazione che è avvenuta in questi ultimi 30 anni, non sarà più come una volta, perché a parte le separazioni, a parte che i figli sicuramente hanno, diciamo, mangiano fuori quasi tutti i giorni con gli amici di scuola o d'altro, e la sera riescono e vanno con gli altri compagni. Questo discorso sì, è molto bello, è molto, come posso dire, ottimistico, però bisogna guardare anche i fatti in faccia, alla realtà, bisogna guardare la realtà, e sicuramente non è più come una volta. Speriamo che le cose cambino in questo senso. Grazie Davide, ciao, buona domenica. Presto, ciao. Ciao, grazie. A proposito, avevo parlato prima del Museo della Tecnologia Leonardo da Vinci, la Scienza e Tecnologia di Milano, e c'è un'altra mostra interattiva anche per ragazzi e famiglie, si chiama Buon Appetito, l'alimentazione in tutti i sensi, ed è una mostra interattiva che aiuta proprio a capire e assaporare, concedetemi l'aggettivo, la cultura del cibo. Il riposo del guerriero. Alcuni ascoltatori scrivono che si può mangiare benissimo 8-9 euro, immagino a mezzogiorno, sono convinto anch'io che sia così in alcuni posti. E poi c'è un altro, Steve da Bergamo, dice: ricordo che in Giappone esiste già da anni qualcosa di simile al Bang Bang Therapy, e per un bel po' di yen ti offrono la possibilità di sfasciare a martellate una stanza con tavoli, vasi e sedie, eccetera. Devo dire che è molto liberatorio. Io ho fatto anche l'attore per alcune cose e in una delle scene dovevo spaccare completamente un pub rompendo proprio veramente tavoli, sedie, eccetera. Mi sono divertito molto. La scena non si poteva replicare, ovviamente, peccato, perché è stato davvero liberatorio. Un mistero in 24 minuti. Però non fatelo a casa, bisogna andare in questi posti giusti, ovviamente. Oh, siamo pronti col nostro mistero per voi, 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. Abbiamo 5 indizi per voi, più indizi ascolterete però più il premio si abbasserà. La risposta, qualcosa di conosciuto o un personaggio famoso o una notizia della settimana. Questo è quello che dovrete scegliere e ascoltate bene il primo indizio. Firenze, buona giornata, ciao Paolo. Sì, buongiorno, buongiorno. Quanti anni hai, Paolo? Scusa, solo 65. Ah, beh, quindi questa canzone te la ricordi e come? Abbastanza. Sì, sì. Siamo nel 1975, per cui un po' di anni sono passati. Credo sia l'unico successo dei Santo California. Questo è il nome del gruppo, i Santo California, e la canzone si intitolava Tornerò. Credo che sia il loro unico successo, perché poi io di altre cose di loro non le ricordo assolutamente, ma questa me la ricordo purtroppo molto bene. Dico purtroppo perché vuol dire che insomma ero abbastanza grande da poter quantomeno ascoltare, ricordarmi. Allora Paolo, che cosa vogliamo fare? Abbiamo 1000 euro qua sul piatto. Cosa vogliamo fare? Dunque, secondo me il personaggio è Bill Clinton. Come mai? Per il semplice fatto che si sta parlando di un suo rientro nell'arena politica in vista delle prossime elezioni negli Stati Uniti, connesso al calo nei sondaggi di Barack Obama come indice di gradimento e all'eventuale contemporaneo innalzamento nei gradimenti della figura della moglie. Ecco, senti Paolo, così visto che ci siamo, la risposta è data, ma per curiosità, secondo te ci sarà anche un rientro di qualche italiano nella politica italiana? Mamma mia, quella è troppo nebulosa. Ti lascio pensare. Grazie Paolo, ciao, buona domenica. Ciao, grazie. Sapete, qui ci sono i momenti in cui si rientra in gioco. 800 24 00 24. Invece voglio che rientrate in gioco voi. Flavia dalla Spezia, buona giornata Flavia. Buona giornata a voi e a te. Allora Flavia, che cosa vuoi fare? La prima canzone immagino la conoscessi anche tu. Sì, ho sentito il motivo, non la conoscevo, ma... Ah, va bene, ecco, c'è sempre una prima volta. Mi fermerei qui, non voglio un altro indizio. Allora, anche per te 1000 euro probabili, che cosa Speriamo rispondi? Speriamo di sì, visto che io sono una cliente assidua di IBS. Ah, bene. Allora, io rimarrei sulla politica. Sì. E al personaggio, in questo caso il ritorno, dovrebbe essere, secondo me, Romano Prodi. Ecco, infatti... Mi riferivo a quello nella domanda di prima. Grazie Flavia, ciao. Grazie, buona domenica. Buona giornata. Grazie, ciao. E 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. Paolo da Pisa, buongiorno. Buongiorno. Ciao Paolo. Allora, cosa vogliamo fare? Aspetta che scusami, ricordo il numero per partecipare, non l'ho fatto prima. 800 24 00 24. Cosa vuoi fare Paolo? Ma io proverei a dare una risposta. Anche tu, vi siete fermati sui 1000 euro oggi. Va bene, io sono qui che aspetto. Non so, e magari qualcuno ci ha dato la risposta giusta. Sai che la soluzione la sentiremo solo alla fine. Ma dimmi pure, vai. Ma io proverei come personaggio con Diego Urbina, che sarebbe uno dei partecipanti all'esperimento che si è svolto a Mosca per valutare gli effetti del possibile viaggio su Marte. Un esperimento che è durato circa 500 giorni, forse tornerò potrebbe essere collegato, diciamo, a questa situazione. Ecco, torneremo tutti con le antenne. Ciao, grazie Paolo, buona giornata. Grazie, ciao. Sembra una cosa così impossibile, ma prima o poi sarà. Maurizio da Torino, buongiorno. Ciao Maurizio. Eccoci, buongiorno a voi. Maurizio, allora, abbiamo qualche risposta già data, un solo indizio scoperto fino a questo momento. Cosa vuoi fare? No, mi fermo anch'io qui, anche se la mia risposta mi pare troppo facile, un po' troppo banale, però qualche volta le cose facili rendono felici. È vero, hai ragione, chissà. Io ho pensato a Cassano, perché un anno senza te, com'è difficile, tornerò, insomma, si è parlato di questo ritorno, di questa assenza così tanto in questi giorni che... perché no? Why not? Intanto l'operazione è andata bene e questo insomma ci fa sicuramente piacere. Grazie Maurizio, buona giornata. Ciao, grazie. È vero, Maurizio diceva una cosa molto vera. A volte le cose sembrano banali, poi è la risposta giusta. Gianni dalla provincia di Siracusa, buongiorno. Sì, buongiorno. Ciao Gianni. Io non credo sia un personaggio, proverei con un'altra cosa, una notizia. Ecco, ma vuoi un altro indizio o ti fermi anche tu un indizio soltanto? No, mi fermo qui anche perché la canzone degli anni 70 mi fa venire in mente l'alluvione di Genova che è ritornata dopo 40 anni. E questa secondo te è la notizia, quindi? Proverei con questa. Grazie Gianni, buona giornata. Grazie, ciao. Buongiorno. Come sempre al 24esimo minuto scopriremo la risposta giusta. Un mistero in 24 minuti. Siamo fermi ancora a 1000 euro, un solo indizio. Sentiamo Giovanni da Firenze che cosa vuol fare. Ciao Giovanni, buongiorno. Buongiorno signor Stefano. Allora, un indizio abbiamo ascoltato, sì, un po' di risposte. Io mi fermerei anche a questo tu. Indizio. Bene, allora. Perché mi ha fatto pensare alla notizia che via web c'è la possibilità di rivivere le ultime ore di vita di Michael Jackson. Grazie Giovanni. Grazie, signor Stefano. Ciao, buona giornata. Ormai tutto è possibile. Alfonso da Caserta, buongiorno. Ciao Stefano, buongiorno. Ciao Alfonso, cosa vogliamo fare? Io provo a dare la risposta. Sì, anche tu, va bene. Sì. Allora, diciamo che dalla prima frase della canzone... Rivedo ancora il treno? Sì, avevo insomma pensato la soppressione da parte di Trenitalia delle vecchie cuccette, insomma, dei sì. treni che viaggiavano di notte da sud a nord. Insomma, hanno quasi dimezzato le corse, quindi... Ma avevo questo pensiero. Grazie Alfonso, buona giornata. Mi piace perché in questo modo voi ci raccontate anche delle cose che avete letto che magari sono sfuggite, no? Però la risposta non era quella giusta, questo lo posso dire. Volete sapere, Pier Giuseppe, buongiorno da Cosenza. Salve, buongiorno. Ma guardi, io ho già sentito tanti rispondere, quindi... Quindi cosa facciamo per Giuseppe? Presto all'improvvisazione, ma... anche se le premetto che non ho seguito all'inizio, tanti hanno dato delle risposte anche esaustive. Ecco, per Giuseppe, io, vogliamo ascoltare un altro... Mi dà un aiutino? No, infatti dico, vogliamo ascoltare un altro indizio, scendiamo a 500 euro, ma magari c'è un altro aiuto, no? Facciamo così. Ah, ho capito, quindi... scende 500. Sì. Non lo so. Davvero... O scendiamo a 500 euro, l'aiuto è un altro indizio, oppure io mi devo fermare a 1000 senza altri indizi, però. Sì, non ho, va bene, anche 500, mi dia di più. Allora sentiamo il prossimo indizio. It's a celebration. Better our relation. A sudden flash in my vision. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Una buona notizia per chi ama Chaka Khan, sta uscendo con un nuovo album, meno male, dopo un po' di anni. Era Chaka Khan con uno dei suoi grandissimi successi del 1988 ed è It's My Party, cioè è la mia festa. Allora, Pier Giuseppe, sì. Scusami, sì. Allora, è la mia festa. Sì. Prima invece in Santo California contornerò. Beh, davvero niente, sono davvero su vuoto, vuoto, vuoto, c'è il vuoto. Non so dire né E né A. Per Giuseppe diciamo I e ci salutiamo. Grazie per Giuseppe. Sì, grazie. Buona giornata, grazie. Che rabbia. Marco da Bari, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Ciao Marco. Di Gas Machine, si può dire? Come no, certo, grazie, mica lo dimentico. Figurati. E anche tu a quanto pare. Allora Marco, cosa vogliamo fare? Io ho due notizie che potrebbero entrambi combaciare. Ora non vogliamo, so, vogliamo un indovinare. Terzo indizio? Cosa vuoi fare? Ma no, provo a indovinare, tanto è un gioco. Sì. Allora, potrebbe essere il 90° anniversario del viaggio che portò a Roma la salma del Milite Ignoto, dove c'è stato il capo dello Stato recentemente. Grazie Marco, sai che non posso dire niente. Buona domenica e grazie per aver ricordato una rivista che ho diretto per 5 anni. Ciao, buona giornata. Roberto da Modena, buona domenica. Sì. La radio, scusami, dovresti spegnerla per cortesia, se no abbiamo un rientro. Ciao, buongiorno. Eccoci qua, Roberto. Allora, provo a avere un altro indizio perché non ci ho capito niente. Va bene, allora sentiamo il terzo indizio. Non la tua bestia rara. Ti ho cercato, ti ho inventato, divertito, amato e vestito da Pierrot. Ho riso e pianto più di un po'. Eccolo qua il terzo indizio, Renato Zero, non l'avrei riconosciuto sicuramente Roberto, il titolo della canzone è Niente trucco stasera. Ma no, guarda, io la butto un po' così, provo a dire ancora un politico, Giuliano Amato, ma non credo che sia quello. Ciao Roberto, buona giornata. Ciao, ciao. Ciao, grazie, ciao. Io so che Marina da Como, che è sugli sgoccioli del tempo, indovinerà. Marina, nessuno ha ancora indovinato, eh? Marina, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Marina, mettiamo insieme questi tre indizi, va? Guardi, mi hanno confuso ancora di più. Bene, sono stati utilissimi allora. Io avevo pensato al ritorno di Cassano. E l'avevano già detto, l'hanno già detto. Già detto. Abbiamo anche finito il tempo. Marina, mi dispiace Marina, buona domenica. Facciamo rigiocare Marina, lo dico il centralino, che almeno visto che non ha neanche dato una risposta, e quindi potrà rigiocare la settimana prossima. Allora, tornerò in Santo California, quindi tornerò perché qualcuno torna, è tornato a farsi vedere, ma in Santo California, quindi, e c'entrava anche il nome del gruppo, parliamo della notte di tutti i santi, di ogni santi, appunto. It's my party perché è una festa, la festa di ogni santi, ovvero Halloween. Niente trucco stasera perché qualcuno si è mascherato. Poi gli altri indizi avrebbero portati sicuramente ad Amanda Knox travestita da ladra e creata molte polemiche proprio nella notte di Halloween. Questo era la risposta giusta. Mi dispiace, anche per oggi non vi ho reso felici, ma spero di avervi reso felici con la trasmissione. Ci sentiamo domenica prossima puntuale alle 10 come sempre con Riposo del Guerriero. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, l'assistenza di Stefano Tagliaferri, Paolo Corleoni in regia e a voi ovviamente. Buona settimana da Stefano Gallarini.